Il cielo in una frase di Filippo Di Giacomo. Bentornati all'ascolto e bentornati anche da parte di Gloria Guerrera, la nostra redattrice, e di Valerio Rocchetti, il nostro regista. Allora, continuiamo ancora a guardare un cielo un po' esotico con un'altra puntata. Questa è la prima del 2009, ancora orientata verso l'Africa, e avremo una guida molto qualificata, anche molto gradita, Massimo Baistrocchi, ambasciatore della Repubblica Italiana in Nigeria. E benvenuto, ambasciatore. Grazie a lei e agli ascoltatori che ci ascolteranno. L'ambasciatore Baistrocchi ha appena pubblicato per l'editore Spirali un romanzo dal titolo Il castello e i suoi amanti. Il titolo sembra rimandare a una visione abbastanza romantica della storia, ambasciatore. Beh, non è proprio una visione romantica, anzi c'è suspense, c'è un assassino, c'è un ambasciatore, c'è un accoppiamento bianco-nero e quindi c'è una storia interrazziale. E il castello dove è situato, il castello dell'opera? Il castello romanzo dell'opera è situato in Namibia, nella capitale della Namibia, Windhoek. È un castello che hanno costruito i tedeschi quando hanno incominciato la loro colonizzazione. I tedeschi sono i penultimi arrivati alla colonizzazione, gli ultimi siamo stati noi ovviamente. Però Bismarck, quando ha incominciato a cercare le colonie tedesche, gran parte dell'Africa era già occupata e quindi si è dovuto accontentare di colonie minori come il Camerun, come il Togo e il Dahomey, oggi Benin, e come la Namibia e il Tanganyika. Soltanto che la Namibia è un paese molto arido, senza grandi corsi perenni, se non alle sue frontiere Angola a nord e Sudafrica a sud. La Namibia poi è stata debellata dai britannici e dai sudafricani nel 1915, con l'inizio della Prima Guerra Mondiale. Quindi è subentrato un protettorato, prima britannico e poi sudafricano. Ecco, questo castello, quando fu costruito sulla fine del XIX secolo, cioè 1896, ed è finito nel 1904. Quando è finito il castello non c'era più bisogno del castello, perché i tedeschi avevano fatto fuori praticamente le tribù locali che si erano ribellate. C'è stata, appunto, oggi c'è ancora un'accusa di genocidio degli Herero, che sono stati trucidati dalle truppe tedesche, e quelli che si erano salvati dagli attacchi sono dovuti scappare in Botswana, nel Kalahari, che è un deserto. Ora non sempre il Kalahari è un deserto totalmente privo di acqua, ma ci sono delle stagioni o degli anni in cui il deserto è proprio deserto, non ci sono pozzi d'acqua, eccetera. Ecco, questo castello nel 1905 è diventato un ritrovo per gli ufficiali tedeschi, ma anche lì la Germania trovava che era troppo caro e quindi è diventato un locale, un ristorante, e dopo è passato a un barone tedesco che l'ha comprato e ne ha fatta la sua residenza. Accanto a questo castello che sta in cima a Windhoek ci sono altri due castelli fatti dallo stesso architetto Sander, e una leggenda metropolitana diceva tra il castello che sta in cima alla collina e l'altro castello, il Sanderburg, che sta a pochi decine di metri più in basso, c'era un passaggio segreto. Attorno a questo passaggio segreto è centrato il mio romanzo, perché questo castello è diventata la residenza dell'ambasciata d'Italia a Windhoek. Adesso è chiuso perché pochi mesi fa abbiamo chiuso l'ambasciata in Namibia, ma la storia è che io ci ho vissuto in questo castello. E non c'era passaggio segreto? Non lo so, non l'ho cercato. Ma in realtà in Congo i nostri cristiani erano convinti che tra la casa dei padri, in genere sul lato sinistro della chiesa, e la casa delle suore sul lato destro, esistesse comunque un passaggio segreto. Non solo in Congo, sempre dove ci sono seminari, sì, e case di suore, la leggenda metropolitana parla di questi. Ed è fantastico vedere che in fondo è comune sotto qualunque cielo. Certo, ora in questo castello di questo che ha acquistato dal nobile tedesco, il nobile tedesco acquistò anche il secondo castello e lì mise sua moglie. Questa era la sua, sia lo Sverinburg, che è il nostro castello, e l'altro era il Sanderburg. Con la debellazio dell'Africa di Sud-Ovest, il castello, per una serie di vicende che qui è abbastanza lungo raccontare, passa in mano ad un nobile britannico, il quale era sposato con un'italiana, dalla quale ha un figlio che abita poi in Italia e che è il figlio, cioè il nipote, è l'ambasciatore italiano che abita in quel castello. L'ambasciatore vuole scoprire il passaggio segreto e allora invita un archeologo italiano che ha lavorato in Etruria, che ha utilizzato tutti quei nuovi sistemi di mappatura del terreno tramite elettrodi, e scoprono questo passaggio. Soltanto scoprendo il passaggio scoprono anche il segreto del passaggio. Questo nonno dell'ambasciatore d'Italia, accortosi che la sua seconda moglie, una boera giovane, si era innamorata dello stalliere nero, decide di vendicarsi e si arrangia per far sì che i due amanti si ritrovino, poi chiude i due passaggi segreti e chiude prima una porta del passaggio segreto. Gli amanti cercano rifugio quando lui sopravviene dentro il passaggio segreto, lui chiude l'altra porta e li lascia morire lì dentro. Soltanto quando questo viene scoperto, ovviamente l'ambasciatore tenta di cancellare tutte le tracce di questo delitto passionale avvenuto 60 anni prima, 70 anni prima, perché avrebbe macchiato il suo parentado. Però non ci riesce, l'archeologo italiano denuncia questo fatto, c'è anche una storia d'amore in cui l'ambasciatore è coinvolto, alla fine l'ambasciatore non può sopportare l'evento e si suicida, fine della storia. Beh, il suicidio forse è l'unico elemento non africano della storia, perché in genere gli africani hanno un po' di difficoltà a togliersi la vita. Ma questo è un britannico, e quindi quando si è visto rifiutato in questa sua storia d'amore recente da questa donna che si è messa con l'archeologo, lui che rivede questa donna che era stata, cioè c'è un transfer lì. In questa donna che non lo vuole, c'è il ricordo del nonno che ha ucciso questa donna bianca che l'aveva tradita. Quindi pensa ad un altro tradimento e quando si vede in questa situazione si suicida. Beh, una bella storia gotica in uno dei paesaggi rimasto per fortuna più incontaminati d'Africa, la Namibia. Certo, anche perché i namibiani sono prima di educazione tedesca, ancora adesso se uno non paga la luce gliela tagliano, se uno non paga l'acqua la tagliano pure, e poi c'è anche l'amore per la natura dei sudafricani, che sudafricani bianchi sto parlando, che hanno conservato, questo bisogna dire, che hanno conservato, i namibiani anche di colore hanno conservato l'amore per la natura, ed è una natura molto fragile. Essendo una natura fragile, è chiaro che è molto protetta. E qui, diciamo, pian piano ci stiamo avvicinando al suo attuale orizzonte in Nigeria, visto che è stato anche in Ghana, in Togo, diciamo così, ci avviciniamo dentro uno di quei giganti. Non si riesce a capire se la Nigeria sia una bella addormentata o un gigante che inizia a russare. Potrebbe essere un mix di tutte e due. È una grande nazione perché sono 160 milioni di abitanti, anche se hanno manipolato il censimento dell'anno scorso dice che sono invece 140. Non potevano superare il 4% di aumento di popolazione, quindi hanno manipolato il censimento. Ma famose politiche di aiuto ai paesi dettati dalle agenzie ONU. No, questa è stata i finanziamenti per il censimento sono stati fatti dall'Unione Europea. Ma comunque non è una storia nuova. Già nel 1954, sotto i britannici, il censimento fatto dai britannici, che già pensavano all'indipendenza futura, dopo un trentennio, come ricordava prima, della Nigeria, per avere un maggiore controllo in un futuro della Nigeria, hanno manipolato i conti della popolazione e hanno dato la prevalenza della popolazione al nord piuttosto che al sud. Oggi stesso Lagos, per esempio, che ha una megalopoli di 15 milioni di abitanti, secondo il censimento invece c'ha meno di 9 milioni, mentre Kano, che sta nel nord, c'ha più di 9 milioni di abitanti, quindi è la principale città della Nigeria. Sì, perché è importante, perché poi adesso diremo sede di un Islam molto, molto radicato. Ma non sono tanto d'accordo su questo, ma comunque ne potremmo discutere un attimo. Massimo Baistrocchi, ambasciatore della Repubblica Italiana in Nigeria e Benin, la nostra guida questa settimana. Finora abbiamo parlato del suo libro, edito da Spirali, Castello e i suoi amanti, un romanzo gotico ambientato in Africa. Il cielo in una frase. Di Filippo Di Giacomo. Di Massimo Baistrocchi, ambasciatore della Repubblica in Nigeria e in Benin. Però l'ambasciatore Baistrocchi è anche giornalista, fotografo e scrittore, si occupa di etnologia, si occupa di archeologia, ha pubblicato molte opere illustrandole, perché è anche pittore e incisore. Quindi abbiamo scoperto che in genere anche gli ambasciatori hanno l'anima. Ogni tanto, non sempre. E allora, parlando con l'anima di chi osserva, oltre che con il cuore e la mente di chi serve la Repubblica, siamo in Nigeria, uno dei giganti d'Africa, una nazione strutturata a suo modo comunque dentro una realtà che, politicamente parlando, attualmente si esprime anche attraverso forme democratiche, una forma federativa di Stato, un incrocio di religioni, forse un esperimento etnologico molto interessante, perché è una delle nazioni dove la presenza di cristiani e musulmani praticamente è paritetica. Sì. Cosa che, diciamo così, spaventa molto chi è abituato a guardare il cristianesimo da paesi arabi, perché lì la presenza è diversa, l'80-90-95% di Islam e minoranze. Invece in Nigeria, come in altre nazioni d'Africa, in alcune nazioni d'Africa, stiamo a metà e metà, due realtà che numericamente parlando non possono vantare primazie, riescono a collaborare. Almeno sono riuscite fino a tempi recenti, per esempio adesso ci sono stati questi incidenti nello stato di Plateau a Jos, dove secondo le notizie ufficiali sarebbero morti solo 200-300 persone, in realtà sono stati molto di più. Eppure Jos era considerato il melting pot della Nigeria, perché aveva, quando sotto la colonizzazione britannica, aveva le miniere, soprattutto stagno, aveva un'agricoltura molto florida perché era un altopiano molto fertile e quindi con le temperature molto favorevoli all'agricoltura, quindi da sud vennero le popolazioni Yorubo e Ibo e da nord vennero i Fulani Hausa e hanno convissuto pacificamente, ripeto, era il melting pot della Nigeria. Hanno vissuto fino al 2001, quando i primi incidenti, chiamiamoli razziali religiosi, sono scoppiati. Ma sono scoppiati non per motivi religiosi o razziali, sono scoppiati per motivi politici. E in Nigeria le religioni convivono e convivono anche abbastanza bene. È la politica che finanzia gli incidenti. È chiaro che poi su questi si innestano elementi endogeni, come il musulmanesimo e anche il cristianesimo, certo, molto duro, molto il musulmanesimo del, per esempio, dei mullah talebani. È una realtà che sta evolvendo in peggio, però i nigeriani sono abbastanza religiosi. I cattolici vanno a messa la domenica e stanno 6 ore in chiesa, ballano, passano delle serate per pregare per la Nigeria. I musulmani molto religiosamente vanno sempre il venerdì, poi quelli del nord hanno le loro 5 preghiere al giorno. Quindi è l'integralismo di entrambe le religioni che viene aizzato dalla politica. Ma sì, perché forse è un'informazione che circola poco in Italia, perché si pensa sempre, diciamo così, di poter guardare il mondo con gli occhiali di casa propria, e noi, grazie a Dio, abbiamo un cristianesimo che nel genere potrebbe essere anche considerato esemplare, perché abbiamo commesso molti errori, però in realtà, diciamo così, è un cristianesimo fatto in casa, trasmesso dalle mamme. Anche se adesso sta derivando verso forme più dure, più... Certo, però dimentichiamo che la parola fondamentalismo, nella sua accezione primigenia, nasce in ambito cristiano. Certamente, certo. Ed ha una matrice, chiamiamola così, protestante o evangelicale, che da alcuni decenni, dagli anni 60 in poi, si è attribuito un destino di esportazione. Certo. Ed in Africa sta componendo, sta alterando gli equilibri che invece la saggezza delle religioni, così come se erano state poste, erano riuscite a trovare. Per esempio, non c'è autorità religiosa musulmana o cristiana, cattolica, protestante anche, che non abbiano detto che questi incidenti di Jos sono un'aiatura per il paese. Non c'è, a mio sapere, nessuna autorità religiosa che ha buttato olio sul fuoco, come può succedere in altri paesi dove islamici, dove il governo o qualche politico dice: ecco, questi i cattolici vanno spazzati via, oppure i musulmani vanno spazzati via. Nello stato di Jos gli incidenti sono incominciati quando c'è stata una manipolazione del voto in uno dei tre distretti di Jos dove si votava, abitato da maggioranza musulmana, Hausa e Fulani. Il vincitore delle elezioni manipolate invece è un cattolico. E anche lì la politica divide la religione, perché il partito di governo in quella regione è cristiano, il PDP, e il partito d'opposizione, ANPP, è musulmano. Ora i musulmani si aspettavano di vincere dove hanno la maggioranza di popolazione, e invece c'è stata questa manipolazione. In Nigeria il partito PDP sta cercando di essere partito unico, perché su 36 stati ne governa 28. E quindi la manipolazione poi è una parte del gioco quotidiano della politica nigeriana. Quindi il politico è quello che foraggia le genti che bisogna pensare che la Nigeria, il 95% della popolazione vive sotto il livello della povertà, e la Nigeria è un paese ricchissimo, è una grande potenza africana, è assieme al Sudafrica una delle due potenze del continente, è maggiore al Sudafrica perché c'ha una popolazione di 160 milioni di abitanti, e quindi si sente una grande potenza, anche se poi agisce non da grande potenza. Però se si pensa anche che partecipa alle missioni di pace in Africa, invia i propri soldati, come facciamo noi, a cercare di sedare le varie guerre e guerriglie che ci sono nel continente, questo fa emergere il carattere del paese, e i suoi governanti si credono una grande potenza, lo sono. Beh, mandano anche nel mondo cattolico missionari, perché come istituti religiosi autoctoni sono ormai a dei livelli che non hanno nulla da invidiare con la Spagna e con l'Italia degli anni 50, sono strutturati, sono in grado di proiettarsi verso il continente con delle presenze. Però stavo pensando all'Africa e all'incontro tra Islam e il cristianesimo come modello da considerare. Poi ci sono anche altri modelli che, diciamo così, andrebbero considerati, mentre stiamo sempre a parlare dei modelli nostri o all'interno dei paesi arabi. C'è il modello del Bangladesh, dove non se ne parla mai, ma dove una maggioranza musulmana integra una minoranza cristiana a tutti i livelli, compresa la decisione dei programmi scolastici. C'è il modello indonesiano, che sarebbe la più grande nazione dove... Però c'è stato anche in Africa due momenti fondamentali, quando in Senegal e in Costa d'Avorio due cattolici come Leopoldo da Senghor e come Ufue Boigny, benché portatori di questo segno di minoranza come cristiani, furono cooptati dai capi religiosi islamici contro candidati presidenti musulmani. Cioè c'è stato un momento delicato come quello della decolonizzazione, un momento in cui Islam e il cristianesimo in Africa hanno tentato di costruire democrazia. Certo, ma se pensa che Ufuebani ha costruito, diciamo, la chiesa a Yamoussoukro, che è una copia fedele del nostro... C'è anche la copia della moschea, però. Sì, perché però... diciamo, perché abbiamo sempre visto la chiesa, però su questo boulevard dell'Unité, su un limite c'è una moschea che riprodurrebbe quella santa e benedetta della Mecca, e dall'altra c'è una chiesa che riprodurrebbe la cupola santa e benedetta di San Pietro. San Pietro, sì. L'Africa è un continente strano, ci sono delle, c'è la parola britannica intertwining, cioè degli stranissimi momenti di coagulazione che poi si sfasciano, poi si ricompongono. È un continente affascinante, dopo tutto. Io adesso vorrei soprattutto chiedere alla sua esperienza di giornalista, fotografo, scrittore, etnologo, se... Ogni tanto lavoro anche come diplomatico. Sì, se di fronte alla parola meticciato lei, diciamo, si preoccupa o meno, e quale potrebbe essere la definizione di meticciato che lei pensa di poter intravedere? Io non penso al meticciato per l'Africa, penso al meticciato per casa nostra. Sì. E noi siamo destinati al meticciato, non c'è via d'uscita su questo, anche perché le nostre società opulente non vogliono più fare dei lavori manuali che solo le popolazioni più arretrate o che aspirano al nostro livello di vita possono fare. Da qui questa immigrazione clandestina sempre più importante, e poi una volta installati gioco forza c'è prima o poi un mescolamento razziale. A meno che non si voglia vivere in modo arretrato, ricreando delle comunità come avviene in Inghilterra, i pakistani che vivono tutti nello stesso quartiere e si risposano tra di loro. Ecco, da noi non esiste questo fenomeno, ci sono già molti matrimoni misti, è chiaro che però tutta questa valanga di immigrati crea molto scontento nelle popolazioni stanziali, io parlo dell'Italia, però fatalmente secondo me il mondo è destinato al meticciato. Il nuovo presidente americano, Obama, è un meticcio, non è un nero, come tutti dicono. Sì, ma métissage fu la parola che Léopold Senghor nel 66 pronunciò nel suo discorso al Campidoglio quando venne incoronato poeta. L'ultimo poeta incoronato a Roma era un africano, forse più che chiudere un'epoca ne anticipava un'altra. Certamente. Grazie ambasciatore Baistrocchi, grazie di cuore. Grazie a voi e a risentirci.